Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Il console Johann Buddenbrock giunse alla villa alle 2 del pomeriggio. In mantello grigio da viaggio, entrò nel salotto dei Grüllich e abbracciò sua figlia con una certa effusione dolorosa. Era pallido e pareva invecchiato. Aveva passato giorni difficili, estenuanti. Thomas si era ammalato di emottisi. Una lettera del signor Van der Kellen ne aveva recato la notizia. Il babbo aveva lasciato gli affari nelle mani sicure del procuratore e per la via più breve si era recato ad Amsterdam. Appena ritornato, era stato colpito da quella botta che per un istante aveva scosso la sua casa fin dalle fondamenta. Quel fallimento a Brema, nel quale aveva perduto in un colpo solo 80.000 marchi. Ebbene, aveva affrontato il pericolo. Si era risollevato, aveva tenuto testa e placato e regolato ogni cosa. Ed ecco, in mezzo alla battaglia, in mezzo a telegrammi, lettere, fatture, gli era caduta addosso quest'altra tegola. Grüllich, Bendix Grüllich, il marito di sua figlia, era insolvente e in una lunga lettera confusa e lamentosa pregava, implorava di concedergli una sovvenzione di 100-120.000 marchi. Il console trasse un sospiro. «Non credo, figliola, che tu sia al corrente della situazione di tuo marito». Si era seduto su una delle poltrone che erano intorno alla tavola, mentre Tony si accomodava ai suoi piedi su uno sgabello formato da 3 cuscini di seta messi di traverso l'uno sull'altro. Il console sfiorava con le dita i diamanti che sua figlia aveva al collo. «No, babbo», rispose Tony. «Ti confesso che non ne so nulla». «Senti, figlia mia», disse il console accarezzandole i capelli, «devo farti una domanda. È una cosa seria. Dimmi un po', tu lo ami tuo marito con tutto il cuore?» «Certo, babbo», rispose Tony con una faccia così ingenuamente ipocrita come faceva a suo tempo quando le chiedevano «Non farai mai più i dispetti alla bambolaia, vero Tony?» Il console tacque un momento. «Tu lo ami così che senza di lui non potresti vivere in nessun caso, vero? Anche se per volontà di Dio la sua situazione dovesse mutare, se dovesse trovarsi in condizioni da non poterti più circondare in avvenire di tutte queste cose». Ed eseguì con la mano un rapido gesto verso i mobili, le porte della stanza, verso la pendola dorata, sulla console, e infine lungo il vestito di lei. «Certo, babbo», ripeté Tony con quel tono consolante che assumeva quasi sempre quando le si parlava con serietà. «Non so fino a qual punto tu conosca o intuisca la situazione. Ho quindi il triste dovere di dirti che tuo marito è costretto a sospendere i pagamenti e che non può più sostenersi nel mondo degli affari. Credo che tu mi capisca». «Grüllich fallisce?» domandò Tony a voce bassa, sollevandosi un po' dallo sgabello e afferrando la mano del console. «Eh sì, cara», rispose lui seriamente. «Non lo immaginavi?» «Ma non immaginavo nulla di preciso», balbettò. «Ti ho dunque domandato», riprese con dolcezza, «mia cara Tony, se saresti pronta a seguire tuo marito anche nella povertà». Ma tosto si rese conto che aveva scelto la dura parola povertà istintivamente come spauracchio, perciò soggiunse: «Egli potrà ancora riprendersi». «Ah, certo, babbo», rispose Tony, ma ciò non le impedì di scoppiare in lacrime. «Dici sul serio, Tony?» domandò. Era tanto perplesso quanto lei. «Non devo, forse», singhiozzò lei. «Devo certamente». «Ma niente affatto. Mia cara figliuola, puoi immaginare che sarebbe molto doloroso per me vederti esposta ai disagi e alle pene che deriverebbero dalla disgrazia di tuo marito, dalla rovina dell'azienda e della tua casa. Io avrei il desiderio di sottrarti a queste prime noie e di accogliere intanto in casa mia te e la nostra piccola Erika. Spero che me ne sarai grata». Tony tacque un istante asciugandosi le lacrime. Ora si tratta del quesito che ti ho già proposto e al quale tu non hai ancora dato una risposta soddisfacente. Sii sincera, Tony. In questi anni di matrimonio hai imparato ad amare tuo marito? Tony pianse di nuovo e, coprendosi gli occhi col fazzolettino di batista, singhiozzò. Oh, babbo, che domanda! Io non l'ho mai amato! Mi è sempre stato antipatico, tu lo sai! Senti, se vuoi condurmi a casa con Erica... Ma sì, con gioia! Adesso lo sai! Il console strinse nuovamente le labbra. Era molto soddisfatto. In quell'istante... La porta del corridoio si aprì lentamente e Grüllich entrò. Johann Buddenbrock si alzò con un gesto che esprimeva «tutto fatto». Il palazzo della Mengstrasse restò immerso a lungo nel silenzio dopo che Madame Antony vi era ritornata con la sua bambina. Si camminava in punta di piedi e non si discorreva volentieri di quella cosa, tranne quando ne parlava la protagonista della faccenda, la quale vi si sentiva proprio nel suo elemento. Per il momento le conveniva vivere ritirata e rinunciare alla vita in società, poiché se anche secondo i concetti umani non era colpevole della sorte che Dio le aveva inflitto per prova, la sua situazione di signora separata dal marito le imponeva anzitutto il massimo riserbo. Tony però possedeva la bella dote di sapersi adattare a qualunque situazione con intelligenza e abilità, trovando il lato bello in ogni mutamento. Ben presto si compiacque della sua parte di donna colpita ingiustamente dalla sventura, si vestì di scuro, portò i bei capelli biondo cenere lisciati come quando era ragazza e si risarcì della mancanza di compagnia facendo con grande aria di importanza e godendosi la serietà e la gravità della situazione considerazioni sul proprio matrimonio, su Grüllich e sulla vita e il destino in genere. Non tutti gliene offrivano l'occasione. La giovane signora trovò invece una compagna attenta nella signorina Jungmann, che aveva ormai 35 anni e poteva vantarsi di aver fatto i capelli grigi al servizio della più alta società. «Non devi aver paura, Tony, bimba mia», diceva. «Sei ancora giovane, ti mariterai di nuovo». Del resto, si dedicava con amore e fedeltà all'educazione della piccola Erika, e le raccontava quelle stesse storie, quegli stessi ricordi che i figli del console avevano ascoltato 15 anni prima. Di preferenza però Tony discorreva con suo padre dopo il pranzo o la mattina alla prima colazione. I loro rapporti erano diventati di colpo più intimi che una volta. Una volta disse: «Ho riflettuto sugli anni del mio matrimonio. Ecco dunque perché il brav'uomo non voleva che abitassimo in città come io avrei tanto desiderato. Per questo dunque vedeva di malocchio se andavo in città e frequentavo qualche famiglia. Là il pericolo era maggiore che Einsbüttel. Il pericolo che venisse a sapere in qualche modo gli impicci nei quali si trovava. Che mariolo!» «Oh, non dobbiamo giudicare, figlia mia», replicò il console. Quando poi fu riconosciuto il divorzio, ella disse con gravità: «Padre mio, l'hai già registrato nelle carte di famiglia? Non ancora? Allora posso farlo io. Dammi per piacere la chiave dello scrittoio». E con orgoglio notò sotto le righe che aveva scritto 4 anni prima: «Questo matrimonio fu legalmente sciolto nel febbraio del 1850». Poi depose la penna e stette un momento a riflettere. «Padre mio», disse, «so bene che questo fatto rappresenta una macchia nella storia della nostra famiglia. Sai, ho riflettuto molto. È come se in questo libro ci fosse una macchia d'inchiostro. Ma stai tranquillo, ci penserò io a cancellarla. Sono ancora giovane. Non ti pare che sono abbastanza carina? Anche se la signora Stutt, rivedendomi, mi disse: "Oh, Madame Grüllich, com'è invecchiata! Non posso mica rimanere per tutta la vita quell'oca che ero 4 anni fa. La vita ti trascina inevitabilmente. Certamente mi sposerò di nuovo. Vedrai che con un nuovo partito rimetteremo tutto a posto, non ci credi? Queste cose sono nelle mani di Dio, ma non sta bene parlarne adesso». Tony prese in quel tempo il vezzo di ripetere continuamente «come accade nella vita» e alla parola «vita» alzava gli occhi con graziosa gravità per far capire che aveva visto a fondo nella vita e nel destino umano. Thank you. La tavola nella sala da pranzo si allungò ancora, e quando Thomas ritornò a casa da Pau nell'agosto di quell'anno, Tony ebbe frequenti occasioni di chiacchierare. Essa amava e venerava quel fratello che fin dalla sua partenza da Travemünde aveva intuito e valutato il suo dolore e che doveva essere in avvenire il principale della ditta, il futuro capo della famiglia. «Sì, sì», disse lui, «noi due, Tony, ne abbiamo già passate di tutti i colori». E sollevava un sopracciglio, spostava la sigaretta russa da un angolo della bocca all'altro e pensava probabilmente alla piccola fioraia dal tipo malese che poco tempo prima aveva sposato il figlio della padrona e ora gestiva per proprio conto il negozio di fiori nella Fischergrube. Thomas Budenbrock, ancora un po' pallido, aveva un aspetto molto elegante. Sembrava che quegli ultimi anni avessero completato la sua educazione. Con quei capelli spazzolati in rilievo sopra le orecchie, coi baffi molto appuntiti alla moda francese e tenuti orizzontali con le schiacce, e con la persona piuttosto grossa e dalle spalle larghe, aveva un aspetto quasi marziale. Ma le vene azzurrine, e troppo visibili alle tempie sottili, che i capelli lasciavano libere formando due insenature, come pure una lieve tendenza al tremito febbrile che il buon dottor Grabov cercava invano di combattere, indicavano che non era di costituzione particolarmente robusta. In alcune particolarità fisiche, come il mento, il naso e specialmente le mani, le vere mani dei Budenbrock, la sua somiglianza col nonno si era fatta ancora più evidente. Poco dopo il suo ritorno, il padre lo introdusse di nuovo, commosso, negli uffici, dove egli stesso riprese a lavorare con maggior soddisfazione. E precisamente dopo la morte della vecchia Madame Kröger, avvenuta alla fine dell'anno. Bisognava sopportare con coraggio la perdita della vecchia signora. Aveva raggiunto un'età molto avanzata e negli ultimi tempi era vissuta in solitudine. Era aspirata nel Signore e i Budenbrock ereditarono un bel mucchio di denaro, 100.000 talleri tondi tondi, che rappresentarono un benvenuto consolidamento del capitale dell'azienda. Johann Budenbrock riponeva speranze nei propri figli. Aveva ogni motivo per nutrire la massima fiducia nella bravura e nella serietà del primogenito. Christian, invece, come aveva scritto Mr. Richardson, aveva imparato bensì molto bene la lingua inglese, ma non dimostrava sufficiente interessamento agli affari e nutriva una grande passione per le distrazioni della capitale, come per esempio il teatro. Christian stesso palesava nelle sue lettere un vivo bisogno di viaggiare e insisteva nel chiedere il permesso di cercarsi un posto laggiù, vale a dire nell'America del Sud, eventualmente nel Cile. «Ma cotesta è smania di avventure», osservò il console, e gli ordinò di completare per il momento in un quarto anno la sua cultura mercantile presso Mr. Richardson. Si ebbe ancora uno scambio di lettere sui suoi progetti e nell'estate del 1851 Christian Budenbrock fece vela per Valparaiso, dove si era procacciato un impiego. Partì direttamente dall'Inghilterra, senza prima tornare a casa. Ma prescindendo dai due figli maschi, il console notava con grande soddisfazione come Tony difendesse con risolutezza e con piena coscienza di sé la sua posizione di discendente dei Budenbrock, quantunque si fosse dovuto prevedere che, come divorziata, avrebbe avuto da vincere la gioia maligna e ogni sorta di prevenzioni da parte delle altre famiglie. Thank you. Ciò che segue accadde verso la fine dell'estate del 55, una domenica, nel pomeriggio. I Budenbrock erano seduti nella stanza dei paesaggi e aspettavano il console, che di sotto stava ancora vestendosi. Si era fissato un appuntamento con la famiglia Kistenmacher per una gita domenicale a un ristorante fuori porta. Tutti all'infuori di Clara e Clotilde, che ogni domenica sera andavano in casa di un'amica a far calze per i piccoli negri, avevano intenzione di prendere il caffè laggiù e, tempo permettendo, di fare una remata sul fiume. «Il babbo ci fa disperare!» esclamò Tony, scegliendo, come al solito, una parola piuttosto forte. «Che non possa mai essere pronto al momento stabilito! Se ne sta alla scrivania, deve finire questo, quello... Oh, santo cielo, può essere anche necessario, non dico di no, per quanto non credo che si arriverebbe al fallimento se deponesse la penna un quarto d'ora prima. E poi, quando è 10 minuti in ritardo, si ricorda dell'appuntamento e sale la scala di corsa a 3 gradini per volta, per quanto sappia che arriva congestionato e col cuore in gola. Sempre così, prima di ogni visita. Ma perché non regola il suo tempo? Non potrebbe muoversi un po' prima e far le cose ad agio? È ingiustificabile. Senti, mamma, se fossi mio marito gli farei una predica sul serio. Tony portava un abito di seta cangiante all'ultima moda ed era seduta sul sofà accanto alla madre, la quale a sua volta si era messa un abito di seta a coste grigio e pesante, guarnito di pizzi. I nastri della cuffia di tulle rigido e merletti, legata sotto il mento con un fiocco di raso, le cadevano sul petto. I capelli lisci erano come sempre d'un biondo rosso. Fra le mani, bianche e delicatamente venate d'azzurro, teneva una Pompadour. Accanto a lei c'era Tom in poltrona, il quale fumava una sigaretta, mentre Clara e Tilde erano sedute presso la finestra. Era un fatto veramente inesplicabile quello di Clotilde, che faceva ogni giorno pasti così buoni e abbondanti senza nessun risultato. Diventava sempre più magra e il suo abito nero, senza forma, non donava affatto a quella magrezza. In mezzo al viso lungo e terreo, sotto i capelli lisci e color cenere, spiccava il suo naso dritto e poroso che si ingrossava verso la punta. In quel momento entrò Ida Jungmann, tenendo per mano la piccola Erika. La bimba portava un abitino di cotone stirato di fresco, diffondeva un odore di amido e sapone ed era alquanto buffa. Aveva la stessa carnagione rosea e gli stessi occhi di Grünlich. Il labbro superiore, invece, era quello di Tony. Tony trasse a sé la figliuola e la baciò sulle guancine rosee, dopodiché la nonna le porse la mano con un sorriso distratto. Infatti stava osservando ansiosamente il cielo che si faceva sempre più buio. Quella sinistra tamburellava sul cuscino del sofà e i suoi occhi chiari guardavano irrequieti dalla finestra. In quella arrivò di corsa la domestica Line e irruppe nella stanza così precipitosamente che Ida Jungmann esclamò in tono di rimprovero: «Oh, che maniera, dico io!» Line, spalancando gli occhi azzurri inespressivi, mosse le labbra, ma non riuscì a parlare per un po'. «Oh, signora, venga, venga subito! Dio mio, che spavento ho preso!» «Brava!» esclamò Tony. «Avrà rotto di nuovo qualche cosa. Magari la porcellana più fine. Mamma, il tuo personale?» Ma la ragazza balbettò angustiata. «No, no, signora, signora Grülich, fosse soltanto questo. È invece il padrone. E io volevo portargli le scarpe. E il signor console è nel seggiolone e non può parlare. Continua a tirare il fiato. E mi sembra che non stia bene, perché il signor Cosole è troppo...» «Da Grabov!» gridò Thomas spingendola fuori. «Dio mio!» gridò la moglie del console premendo le mani giunte contro una guancia e uscendo di corsa. «A prendere Grabov con una carrozza, subito!» ripeté Tony senza fiato. Tutti scesero la scala a precipizio e attraverso la sala da pranzo entrarono nella camera. Ma Johan Budenbrock era già spirato. Thank you.